Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Si apre oggi dunque, come sentivate, una due giorni decisiva per le prossime decisioni da prendere a Bruxelles. Tra pochi minuti prenderà il via il Consiglio europeo con sul tavolo la questione delle nomine dopo il voto, ma anche la flessibilità del patto europeo e le politiche dell'austerity. Domani i lavori si svolgeranno in realtà a Bruxelles, perché invece oggi i capi di Stato e di Governo sono a Ypres in ricordo della Prima Guerra Mondiale. Ne parleremo tra poco, ma cominciamo però invece dai temi in agenda. Da cosa si parte, Sergio Nava? Sì, buongiorno. Dunque, al via nelle prossime ore il vertice, che avrà già un prologo questo primo pomeriggio con i prevertici di popolari e socialisti. Il premier Matteo Renzi è già partito alla volta di Bruxelles. Le ultime novità riguardano il piatto forte in agenda stasera, quello delle priorità programmatiche della prossima Commissione europea. L'oggetto del contendere è rappresentato dai margini di flessibilità che potrebbero venire concessi ai singoli paesi per realizzare riforme e investimenti utili alla crescita. Secondo l'ultima bozza di conclusioni del vertice, la linea italiana qui appare in difficoltà. L'Unione Europea, si è scritto, ha bisogno di passi avanti coraggiosi per aumentare gli investimenti, creare più e migliori posti di lavoro e incoraggiare le riforme per la competitività. Ciò richiede di fare buon uso della flessibilità che è contenuta nelle regole esistenti, e sottolineo esistenti, del patto di stabilità e crescita. Così recita la cosiddetta agenda Van Rompuy, che ricalca abbastanza la posizione tedesca. Il concetto è addolcito da altri paragrafi, quali il fatto che le riforme strutturali destinate a rafforzare la crescita e la sostenibilità dei conti devono essere incoraggiate anche attraverso una valutazione più integrata con quella delle misure di bilancio nell'ambito del patto. C'è pure un riferimento al tema immigrazione, qui più favorevole all'Italia. Una delle sfide future per l'Europa sarà gestire i flussi migratori con solidarietà e un'equa condivisione delle responsabilità. C'è la necessità di una gestione rafforzata e moderna delle frontiere esterne e un ruolo più forte dell'Europa nel Mediterraneo. Infine il tema energia: dobbiamo evitare che l'Europa faccia affidamento sulle importazioni di carburante e gas, occorre assicurare energia a tutti i paesi, accelerando la diversificazione di forniture e rotte. Resta poi alta la tensione sul fronte nomine. La Gran Bretagna va verso una sconfitta sul presidente della Commissione, che sarà quasi certamente il lussemburghese Jean-Claude Juncker, ma il premier britannico Cameron promette battaglia fino all'ultimo. Al suo fianco è rimasta solo l'Ungheria. Pochi minuti fa la cancelliera tedesca Merkel ha ribadito che Cameron vuole un voto sul presidente della Commissione europea, ma, dice la Merkel, alla fine non è un dramma, è tutto. E grazie a Sergio Nava. Naturalmente vi aggiorneremo per tutta la giornata, ma dicevamo, prima giornata di lavori oggi a Ypres, e allora ricordiamo anche perché. Nella monotona pianura delle Fiandre occidentali, a ridosso del confine francese, dove ben 170 cimiteri militari ospitarono circa 700.000 caduti in quattro delle più cruente battaglie della Grande Guerra, e dove ha ora sede invece un grande parco di divertimenti per ragazzi. Non è certo casuale la scelta di Ypres, la cittadina belga dove si troveranno oggi pomeriggio i leader dei 28 paesi dell'Unione Europea, per ricordare il centenario degli orrori della Prima Guerra Mondiale. Proprio Ypres ha avuto un doppio triste destino, non solo di essere rasa al suolo tra il 1914 e il 1917, ma anche di dare nome all'iprite, il micidiale gas urticante dall'acre odore di mostarda, che qui fu utilizzato per la prima volta dai tedeschi. E proprio qui a Ypres Herman Van Rompuy ha invitato i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea per una cena solenne che ricordi l'attentato all'arciduca Francesco Ferdinando, ucciso nel 1914 a Sarajevo, pretesto di inizio per la Grande Guerra. I leader si troveranno nel pomeriggio sotto l'arco di Menin, il documento che marca l'inizio della strada che i soldati imboccavano per andare in battaglia. Inglesi, belgi, francesi, italiani e tedeschi saranno insieme, dalla stessa parte, come monito contro il nazionalismo di ritorno e le nuove forme di populismo che vogliono frenare l'integrazione europea. Non siamo perfetti, ha detto Van Rompuy, ma l'Europa resta un modello di pace, solidarietà e progresso per molti. A cena si comincerà a discutere dei programmi e delle nomine della nuova Europa, e non si esclude qualche tensione, ma davvero irrilevante rispetto alle enormi tragedie del passato. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Ypres. E proibire il riconoscimento legale della relazione tra un padre biologico e figli nati attraverso la pratica delle cosiddette madri surrogate, gli uteri in affitto per intendersi, viola la Convenzione europea dei diritti umani. Una sentenza arrivata oggi dalla Corte di Strasburgo, che si è pronunciata contro la Francia sul caso di due coppie di genitori che si sono rivisti rifiutare da Parigi il riconoscimento come loro figli di bambini nati negli Stati Uniti da madri surrogate. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che le autorità francesi non riconoscono riconoscendo diritti agli adulti, hanno violato in realtà i diritti dei bambini, perché li hanno lasciati in una situazione che la Corte definisce di incertezza legale, che ne mina l'identità, visti anche i problemi che potrebbero incontrare a ottenere la nazionalità del paese e ereditare i beni dei genitori. Ci fermiamo qui con le notizie dall'Europa, ma come sempre a Radio 24 l'Europa vi aspetta anche a effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.